drama no es necesario. Ya conozco ese teatro, mintiendo. Qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente en la fiebre de tus besos. Mentiste serenamente y el telón cayó por eso. Teatro, lo tuyo es puro. Teatro, puro teatro. Fuori dal dramma, dentro e oltre la comicità. PS teatrali, femministe e lesbiche in radio. Perdona che non te crea, lo tuyo es puro teatro. Morning Sun di Hopper, una ragazza sopra un letto che guarda fuori dalla finestra davanti a lei. Mi sveglio all'alba per vedere il sole sorgere e cercare la vibrazione giusta, quella che liberi il mondo dalla guerra, dall'inquinamento, dalla carestia, dal razzismo e dall'omofobia. La cerco qui, alla finestra, sorseggiando uno spritz, accendendo candele profumate, incenso e sventolando bandiere della pace. Non chiedetemi però di scendere giù, in mezzo al traffico, a fare rivoluzioni di piazza, tra i bambini che gridano e la vecchietta che ti chiede di attraversare la strada. No, troppo faticoso, non ce la posso fare. Io no, resto ad aspettare qui, a meditare, aspettare, meditare, aspettare, meditare e aspettare. E andare verso la luce. Ah! Oh, è caduta. Ciao, buonasera, benvenute. Siamo qui con Sonia, Laura e Antonella di Elementi Contorti, che è una compagnia teatrale che esiste dal 2011. Allora, intanto vi chiederei ognuna di voi di presentarvi. Ciao, ciao a tutti. Sono Sonia, la regista di Elementi Contorti. E poi c'è? Laura, sono un'attrice della compagnia Elementi Contorti da un paio di anni. E ciao, sono Antonella, un'attrice sempre degli Elementi Contorti, sempre da 2 anni. Che cos'è Elementi Contorti? Allora, Elementi Contorti è una compagnia teatrale, diciamo amatoriale, e un'associazione culturale. È nata appunto nel 2011 dall'accorpamento di due compagnie teatrali, una di Casalotti, che era nata in zona Casalotti, l'altra in zona Ostia, e che lavoravano, facevano teatro già da 10 anni e avevano già fatto delle cose insieme in questi anni, e poi si è deciso di unirsi nel 2011, abbiamo deciso di unirci, di fondare anche un'associazione con l'idea che magari di costruire qualcosa insieme, insomma. Quanti siete? Siamo vari, nel senso che, brava, bella domanda, quanti siamo Elementi Contorti. Elementi Contorti che girano su Elementi Contorti saremo almeno 30 o 40 persone, che ogni anno attivi che per lo spettacolo, di solito una 10-12, ma poi se abbiamo bisogno di qualcuno lo peschiamo, anche di qualcuno che ci venga a aiutare anche semplicemente dietro le quinte. sono sempre tutti disponibili a venirci ad aiutare. È una compagnia mista fatta di uomini e donne, attrici, sì, attori e una regista. Sì, donna. Donna, sì. Perché sei tu che parli in questo momento. Siamo qui, siete qui, vi abbiamo invitato perché avete fatto uno spettacolo fatto solo dalle donne della compagnia. L'occasione è stata quella appunto della... Via Rosa, della Via Rosa, è una serie di appuntamenti dedicati alle donne che è stata realizzata all'interno del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli. E ecco, all'interno di uno di questi appuntamenti abbiamo messo il nostro spettacolo. E la Via in Rosa viene fatta ogni anno? La Via in Rosa sì, viene fatta ogni anno, questo è il terzo anno. Nasce dall'esigenza di portare più donne al Mario Mieli, dove c'è spesso presenza maschile, ben voluta, eccetera, eccetera. Però se arrivano donne ci fa molto piacere, insomma. Senti, diciamo due parole a questo punto su Mario Mieli. Sul Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli è una, insomma, un'associazione di volontari, una ollus che da tantissimi anni, insomma, svolge delle attività in difesa, insomma, della causa omosessuale. E, siamo presenti, insomma, a Roma con la nostra associazione. Arrivano ogni anno sempre nuovi associati. Il progetto che abbiamo nel mese di giugno, il 7 giugno, sarà il Pride. Il Pride viene organizzato, insomma, tutti gli anni, di cui andiamo molto fieri. Giustamente. E esiste da tantissimi anni il Mario Mieli? Sì, tanti anni, l'anno esatto non me lo ricordo. Tu da quanto ci stai dentro? Io da almeno 5 anni che faccio la volontaria, insomma, per la Via Rosa e per tutte le altre attività che vengono fatte. Allora, per la Via in Rosa di quest'anno, ad aprile avete messo in scena uno spettacolo che si chiama Soqquadri de Donne. Soqquadri de Donne. E lascio la parola alla regista per questo che... Sì, Soqquadri de Donne. Soqquadri de Donne è nato così, è nato sì dal fatto che avevamo piacere, ci avevano chiesto di fare qualcosa per la Via in Rosa e ci faceva piacere farlo, perché poi tante cose con il Circolo Mario Mieli, siamo lì, anche noi facciamo le prove nella stessa struttura del Mario Mieli, quindi ci si incontra e ci si scambia volentieri tanto. E quindi volentieri abbiamo fatto questa serata. Non sapendo cosa fare, abbiamo preso questa idea dei quadri. Allora, Soqquadri è nato dall'idea che le scene venissero fuori come stimolo visivo da quadri famosi, di autori famosi, con personaggi femminili. A questi abbiamo fatto una ricerca sulle tipologie di lesbiche. E quindi abbiamo tentato di associare questi personaggi dei quadri a delle tipologie lesbiche e abbiamo provato a creare delle scene in questo modo, che partissero dal quadro e che poi il quadro veniva proiettato, poi si animava sulla scena e c'era la storia che secondo noi c'era dietro a questo quadro. Come avviene il processo creativo? Come è avvenuto in questo caso? Allora, il processo creativo... Lo può raccontare anche Antonella, perché dai, tutti abbiamo... D'accordo, sì. Lo stimolo è il quadro e quindi noi diamo vita a quello che il quadro ci ispira. Facci un esempio. Ad esempio, in un quadro ci sono due personaggi, partiamo dall'assenzio di Degas, dall'espressione del volto oppure dalla posizione del corpo dei personaggi ritratti, noi traiamo ispirazione per costruire la storia. Che secondo storia è uscita fuori quindi dall'assenza di Degas? Sì, sempre associando i personaggi alle tipologie di lesbiche. Uno rappresenta l'archeologa, ovvero un personaggio che scava nelle sue storie amorose del passato, pensandoci e ripensandoci, arrovellandosi sui perché e per come. Mentre l'altro personaggio è un personaggio maschile che abbiamo associato alla tipologia Butch, cioè una tipologia un po' mascolina, insomma. E quindi è uscita la storia dell'archeologa che sta lì a ripensare alle sue storie passate, mentre l'altra sta un po' per i fatti suoi, bevendo birra, anzi passandogli bicchiere dopo bicchiere di birra, finché si conclude con... Questa la facciamo sentire. Ok. Okay. Assenzio di Degas. Una signora con un bicchiere d'assenzio davanti e lo sguardo perso nel vuoto. Vicino a lei una figura un po' mascolina. E nel nostro caso abbiamo individuato come personaggi l'archeologa, colei che scava nel proprio passato, e la Bacci. E vediamo questo connubio che cosa porta. Prego. Due margarita. Quattro. Mamma. No, mamma. Mamma. No, mamma. Ah, oh, e bevi, non ce pensa. Ah, Carmela, lei sì, sicuramente mi ama. Ah, quante partite viste insieme. La curva sud può essere veramente romantica certe domeniche. Mamma. No, mamma. Mamma. No, mamma. E che bevi? Proviamo con Faustina. Sì, lei è quella giusta. Se non fosse che dopo due ore di sguardi, accenni e chiacchiere sul più bello, mi ha piantata con la scusa dell'orario. Era pure sabato sera. Però mi ha detto arrivederci. Forse sì, ritornerà. Non gli ho chiesto nemmeno il numero. E nemmeno lei. Vabbè. Mamma. No, mamma. Mamma. No, mamma. E basta con sti pianti fatti in sorso. Ah, femme fatale la chiamavamo. Ci ero pure riuscita a invitarla a casa mia. Se non fosse che poi abbiamo esagerato con la tequila e abbiamo passato la serata a parlare di quanto desiderasse essere amata per la sua bellezza interiore. Ci ho rimesso anche una scatola di Kleenex. Mamma. No, mamma. Mamma. No, mamma. E tu? Che ne pensi? Street. Siamo qui con Sonia, Laura e Antonella di Elementi Contorti. Ritornando al processo creativo, sì. Raccontaci un'altra tipologia o stereotipo di lesbiche che avete messo in scena a partire da dei quadri. Sì, abbiamo messo in scena ad esempio lo stereotipo della femme fatale, no? Di quella che, della donna che non deve chiedere mai, associandola a... alla tipologia dell'etero infiltrata, cioè della persona curiosa che va alle serate e poi insomma secondo la nostra fantasia si tira indietro al momento più clou della serata, e quindi creando la situazione della curiosa che vede la femme fatale e cerca di conquistarla, però poi alla fine si dilegua quando le cose si fanno serie. Un altro dei quadri che vedo che avete nel copione che avete portato è il ritratto di Violette di Odilon Redon, per esempio da questo... l'abbiamo trovato su internet perché non ce lo ricordavamo, però che personaggio avete tirato fuori? E abbiamo tirato fuori il personaggio di una pensatrice, l'abbiamo chiamata, ovvero di una persona che sta lì a pensare ai fatti suoi mentre altra gente attorno a lei si fa un'idea di lei, chissà cosa sta pensando, chissà cosa, quali alti pensieri, filosofie tirerà fuori, invece sta pensando insomma fatti suoi e altre persone attorno a lei cercano di coinvolgerla, chi le canta una serenata, di corteggiarla, chi le canta una serenata o chi le recita una poesia, e alla fine lei si alza e si scopre che stava pensando alla lista della spesa, era proprio ai fatti suoi su un altro pianeta, sì. Praticamente come costruite lo spettacolo? A partire da uno stimolo, ognuno propone le sue idee e quindi mettiamo insieme le diverse idee, cerchiamo anche di farle, di metterle in scena, e poi anche facendole ci vengono altre idee e quindi poi alla fine le scriviamo, le mettiamo giù sotto forma scritta Così. Vi divertite? Vero? Appunto, l'idea è di partire sia da idee che dalle improvvisazioni teatrali. Quindi, per esempio, per questo spettacolo, la prima cosa ci siamo messi intorno a un tavolo con patatine, birra e quant'altro e abbiamo messo tutti i quadri davanti e ognuno diceva le sue idee rispetto a quel quadro, li abbiamo proprio appuntati dietro e poi ognuno si è preso la briga da tutte le idee messe giù di mettere un po' bene una scena. Poi ci siamo rivisti e queste scene le abbiamo provate, mentre si provano vengono altre idee, quindi si riprovano con quelle altre idee e piano piano si costruisce fino alla forma che piace di più a tutti, nella quale insomma tutti si divertono di più. Sì, divertirsi è fondamentale. Proprio fondamentale divertirsi, è proprio facciamo per questo, sennò se ci vedessimo la sera anche per rompersi le scatole sarebbe sì. Triste assai. No, vi chiedo questo perché comunque il linguaggio che avete scelto è quello dell'ironia e della comicità e quindi mi sembra chiaro che una ci si diverta nel esatto, fare... Esatto, sì, non solo perché l'ironia e la comicità serve per far divertire, ma l'ironia e la comicità non arrivano al pubblico se in prima persona la persona che recita non si diverte. Se non ti stai divertendo non fai ridere. E assurdamente anche le cose molto stupide che sembrerebbero dici no vabbè ma questo non fa ridere, se fai arrivare l'emozione del divertimento il pubblico ride, perché il meccanismo è questo, il pubblico ride perché gli arriva che sul palco sta succedendo qualcosa di divertente, che c'è un gruppo che sta comunicando qualcosa, che sta comunicando prima tra loro e poi al pubblico. E questo arriva, secondo me, forte. Quindi anche il sapersi divertire è un lavoro di allenamento che fate? Orca, è vero, sì. Me lo fai pensare, mi ci fai riflettere in questo momento. Però sì, effettivamente sì. Noi ogni volta che ci incontriamo per mettere su uno spettacolo o durante l'anno per fare il training teatrale, per fare esercizi, perché noi facciamo anche spettacoli di improvvisazione teatrale, quindi ci vediamo anche, diciamo, semplicemente per improvvisare, semplicemente un corno, però insomma per dire, insomma, per improvvisare. Sì, lì è tutto sì un... è tutto un lavoro sullo sciogliersi sul tirare fuori la propria emotività, sì, la propria emotività in tutti i sensi e come ci piace divertirci e divertire spesso vengono fuori insomma cose. Non ci prendiamo sul serio, penso che questa sia la chiave giusta per approcciarsi a questo gruppo, no? Nel senso, non siamo attori d'accademia, come dire, ci divertiamo e proviamo a far divertire le persone che vengono a vederci, questa è la ricetta, secondo me. Perché uno arriva dopo la giornata di lavoro, di precarietà, di vita, di assurda nella città e così via, e... bisogna entrare in uno spazio, no? Specifico, altro, sì. Altro. Io dico sempre, c'era un mio insegnante che faceva lasciare fuori le scarpe, e noi le lasciamo dentro perché siamo più barboni, dice con le scarpe lasciate fuori anche i vostri problemi, la vostra vita di fuori, qui è altro. Effettivamente è un po' così, lo spazio teatrale, sia lo spazio di prove che lo spazio scenico è un po' questo. Anche quando lo spettatore va a teatro, sono quell'ora, ora e mezza nella quale si vive un momento altro, no? È un pezzettino di vita a sé che in quel momento provi, ci sono delle emozioni che circolano, cioè un momento altro. Penso sia anche un lavoro su se stessi, no? Nel senso che quando c'è la giornata storta, quando qualcosa non ti è andato bene, sì, lasciare fuori queste emozioni, ci devi anche lavorare, nel senso che comunque far ridere in quella serata, comunque mettersi comunque in gioco, è un lavoro su se stessi, nel senso è qualcosa. Se c'è la serata storta, magari se in un gruppo di amici ti metti da una parte, stai più silenzioso, che invece lì comunque lavori appunto sulle tue emozioni. Questa è la mia esperienza personale, insomma, poi. un'ultima cosa da una cosa che ha detto Laura poco fa. Ha detto: non siamo attori d'accademia. È vero, non siamo attori d'accademia. Questo secondo me è la nostra forza, perché ci si vede, perché si ha voglia di vedersi e di divertirsi insieme, e soprattutto non essendo attori d'accademia, quindi mancando anche di una parte tecnica, cioè una parte c'è, tento quel poco che ho di passarlo al gruppo, però quello che la nostra forza è proprio mettere insieme ognuno le proprie risorse. È così che nascono gli spettacoli, che sta insieme il gruppo, che lavora il gruppo, ecco, mettendo insieme le risorse di ognuno, chi più ironico, chi più magari più mentale, chi più fisico, perché noi facciamo tanto teatro fisico, infatti alcune cose adesso non si potranno... la radio. Esatto. Possono immaginare, però. Esatto. Perché per noi è importantissimo il lavoro sul corpo, sull'espressività, e quindi c'è appunto chi è più fisico, chi è più di testa, chi è più... mettendo insieme il tutto viene uno spettacolo, secondo noi, completo. Ecco. Il quadro è Le amiche di Tamara Dell'Empica. Sono due donne, l'una di fronte all'altra, molto simili, che si guardano. Non ci posso credere che ci abbiamo messo così tanto tempo a metterci insieme. Già. Dobbiamo assolutamente andare a festeggiare. Al ristorante giapponese. Tu adori il cibo giapponese. Anche tu. Io però ti ho fatto una sorpresa. Dai, anche io, una sorpresa bellissima. Mai quanto la mia. Guarda qua, due biglietti... per il concerto di Dolce Nera! Così ora abbiamo quattro biglietti. Pazienza, vuol dire che metteremo anche Federica Ivana! Non ci posso credere che ci abbiamo messo tanto tempo a metterci insieme. Già, sì. Vabbè, non te lo volevo svelare, ma non ce la faccio, te lo dico adesso. La vera sorpresa è un'altra, te ne saresti accorta solo stasera. No, dai, non mi dire che anche tu... ti sei fatta tatuare le nostre iniziali! Ok, abbiamo avuto la stessa idea, però io me le sono fatte tatuare all'interno della coscia sinistra. E sei andata da Tatuo Tutto sulla Prenestina, altezza 100 celle, il migliore, già. Non ci posso credere che ci abbiamo messo tanto tempo a metterci insieme. Già, del resto non avrei potuto resistere, mi hai fatto una corte spietata. Io? Ma se tu non mi toglievi mai gli occhi di dosso, senti, ti sono sempre piaciuta. Cioè, vuoi negare di avermi corteggiata? E tu vuoi negare di essere sempre stata innamorata di me? Tu mi hai messo gli occhi addosso dal primo giorno. Ah, ora neghi. Certo, tu neghi sempre tutto. Non tu sai assumerti le tue responsabilità. Sai cosa che ti dico? Vaffanculo! E lavorare su una tematica prettamente lesbica, che effetto vi ha fatto? Visto che nel gruppo c'è una lesbica. Io sono chiaramente di parte, quindi per me è stato bello, insomma, parlare della tematica lesbica, insomma, portarla lì al Mario Mieli. È anche bello vedere appunto come delle donne, non mi piacciono le etichette, però eterosessuali, no? Hanno contribuito, insomma, alla realizzazione di questo spettacolo, no? E, insomma, la serata cerca di fare cultura appunto sulla tematica omosessuale lesbica, e quindi far partecipare, insomma, anche appunto ragazze, donne eterosessuali, insomma, ci ha fatto aprire, ci ha fatto condividere anche questo aspetto. Per esempio, non conoscevo gli stereotipi, esatto. Ad esempio, quindi per me è stata anche una scoperta in modo divertente. Mi sono affacciata su un mondo che conosco poco, evidentemente, perché non ne sapevo, e quindi attraverso lo spettacolo ho imparato, per esempio, che ci sono degli stereotipi, e mi sono anche divertita a metterli in scena per quanto rimangono stereotipi, assolutamente. Per il prossimo spettacolo invito le donne a venire al Mario Mieli e farci scoprire altre tipologie di lesbiche. Erano poche. Vabbè, è materia giusto, per lo spettacolo. Se ne possono tirare fuori. Esatto. Trittico amoroso, sullo stimolo di tre quadri di Waterhouse. Il primo quadro sono due donne vicino a un fiume, due donne vicino al fiume e una terza dentro l'acqua. Nel terzo quadro ritornano le due donne, una nell'acqua e l'altra fuori. Mi ami? Sì. E quanto mi ami? Tanto. E tanto quanto? Tanto così, come la tua arpa. Così poco? Ma no, tanto, quanto questo scoglio dove poggi il tuo adorato fondoschiena. Così poco? No, tanto tanto, tanto quanto tutto questo fiume. Amore mio, così poco mi ami? No, ti amo tanto, tanto quanto... Scusa, tu, puoi venire a darmi una mano? Sì, sì, vieni, vieni anche tu. Sì, sì, vieni pure tu. Prendiamoci tutti per mano. Ecco, così tanto ti amo. Così poco, amore mio? No, come quella montagna che vedi laggiù. Vieni, vieni, vieni, ti faccio vedere, vieni. Secondo quadro. Lei e lei amoreggiano. La fidanzata della prima lei arriva sott'acqua con un boccaglio e dice: così poco? Di buono? Terzo quadro. Di nuovo le due fidanzate. Senti un po'. Ancora che bazzichi per questo fiume. Guarda, prendi tutte le tue cose e vedi di andartene. Sparisci dalla mia vista, altrimenti, quanto è vera la Madonna, mi dimentico di essere una brava persona e ti prendo quel collo che ti ritrovi e ti scanno come una gallina. E poi ti prendo le braccia, ti appendo al muro e te le suono meglio che con l'arpa, maledetta, che è dall'inizio di questo cazzo di quadro che dobbiamo tenere in mano. Adesso te la butto veramente al fiume. No, l'arpa no! E dopo che te le ho suonate, getto pure te al fiume assieme all'arpa, brutta baldracca che non sei altro. Non ti avvicinare più a me alla mia casa, svergognata, mignotta, maledetta, infame traditrice, strega! Così poco? Sì. progetti futuri? Allora, Sud America, credo. Un'amaca. 6 mesi? Ma anche se i prossimi 30 anni. Dunque, no, stiamo mettendo su uno spettacolo che si intitolerà, probabilmente, perché lo stiamo costruendo adesso, Giulietta e Romeo, esercizi di stile. E dove rivediamo la Giulietta e Romeo, Romeo e Giulietta, il famoso dramma shakespeariano, in più stili teatrali. Quindi ci saranno, insomma, esattamente la scena del balcone rivisitata, rivista e corretta in più stili teatrali, cinematografici, dialettali, insomma, tutto quello che, appunto, stanno venendo fuori tutte le idee, quindi non so poi che cosa verrà messo in scena. Per ora nel calderone c'è tanto. Com'è la situazione dei teatri e degli spazi per esibirsi per voi a Roma? Complessa. Dura, complessa, immagino. Sì, no, molto dura, perché noi ogni volta che abbiamo uno spettacolo e vogliamo esibirci, intanto per la nostra idea di teatro, quando possiamo ci inseriamo in iniziative come la Vie en Rose, o abbiamo fatto degli interventi per emergency, abbiamo fatto più spettacoli per Ostia per l'Africa, perché per noi il teatro è anche un dono, una cosa che facciamo, che ci piace donare alla collettività. E quando vogliamo semplicemente andare in scena è complicato, bisogna affittare un teatro, e non è esattamente quello che ci piace di più, ecco. Però spessissimo è così: affittiamo un teatro e poi cerchiamo di farci pubblicità e portare la gente, che in una città come Roma non è assolutamente facile. Gli spazi, appunto, sono questi. Ripeto, affittare un teatro sono spazi a pagamento, sono pochissimi spazi, insomma, dove la gente si auto-organizza. Noi abbiamo fatto spettacoli al Volturno occupato, sì. Quelli sono spazi dove ci piace lavorare. Però poi appunto anche lì è complicato in un altro senso, anche lì, perché le organizzazioni, insomma, sono sempre molto complesse, perché giustamente si fa anche tanto altro in un luogo occupato. E quindi questo è. Mi piaceva questa cosa che dicevate, che raccontavate sul fatto che vi piace lavorare di più in situazioni tipo festival o iniziative, cioè quindi di inserire il vostro lavoro, che è già un lavoro di gruppo, dico, in un contenitore comunque collettivo. No. Mi sembra che, cioè, questo sia anche un filo conduttore, questo del lavoro collettivo e del lavoro di gruppo. Ma anche cose molto piccole, non per forza appunto situazioni dove c'è il teatro occupato, anche il cortile il cortile che si è auto-organizzato e ha voglia di fare uno spettacolo, veramente situazioni però per e della collettività. Fate anche teatro di strada, mi raccontavate prima che addirittura questo spettacolo che avete appunto scritto, pensato e recitato con il gruppo di donne, poi l'avete riportato nel gruppo misto ed è diventato qualcos'altro. Esatto, sì, è diventato Soquadri. E dunque, a dire il vero, Soquadri è già stato un vecchio spettacolo di Elementi Contorti, prima che arrivasse Elementi Contorti, quindi siamo già partiti da stimoli di Quadri. Però con il gruppo attuale abbiamo messo insieme Soquadri e l'abbiamo portato in scena a Garbatella, in uno spettacolo itinerante all'interno di una giornata, della giornata della mobilità culturale indetta dall'ottavo municipio, dove appunto il municipio aveva chiesto alle associazioni di organizzare dei trekking, dei veri e propri trekking all'interno del municipio, per far conoscere il municipio, e noi teatro facciamo, e quindi quello che abbiamo potuto dare come risorsa appunto era il teatro, è stato il teatro, siamo andati a Garbatella insieme, abbiamo visto i luoghi più idonei dove mettere i quadri, E abbiamo fatto questo spettacolo itinerante dove la scena, cioè, poggiavamo la riproduzione del quadro un po' ingrandita su un cavalletto da pittore e vicino veniva fatta la scena. Insomma. Il quartiere aiuta? Il quartiere ha aiutato tantissimo, no? Sia come luoghi, ma anche immagino per avere Garbatella. Anche immagino come pubblico, non solo come luoghi. Ma il pubblico, devo dire, è stato da tutta la città. Sì, è venuto da tutta la città, sì. Allora, donne, elementi contorti, vogliamo ringraziarvi per essere venute in radio al martedì femminista e lesbico. Grazie di Radio Onda Rossa. Grazie a voi, ovviamente. Grazie. E poi, non so, volete lasciarci dei contatti, dei riferimenti, anche per potervi ritrovare, per sapere quando saranno i vostri prossimi spettacoli? Volentieri. Ci trovate principalmente su Facebook, se cercate Elementi Contorti c'è la nostra pagina e il nostro profilo e lì di solitamente pubblichiamo tutto. Poi abbiamo anche un sito non moltissimo aggiornato, lo aggiorneremo, che è sulla, su blogspot, elementicontorti.blogspot.com. E se no ci scrivete elementicontorti@gmail.com e potete avere insomma tutte le informazioni. Prossimo spettacolo circa il 10 luglio dovremo andare in scena con Giulietta e Romeo, esercizi di stile. Vi aspettiamo, non sappiamo ancora dove, quindi tenetevi informati con tutte queste modalità qui. Se volete venire ci farà ovviamente piacere. Volentieri, grazie davvero Laura. Grazie, i tuoi a contatti. Voi, grazie di questa intervista. Mi contatti, sono il tuo telefono. Allora, il telefono è 166 4. 166 Chatteroni. Cioè, se lo vogliamo dare, no, ma no, io, no, io conoscendoti ero convinta che non vedevi l'ora di darlo. di darla. Scusa, non ti smentisci mai. I miei contatti sono i vostri. Dal quadro di Picasso Les Mademoiselles d'Avignon, che riproduce cinque ragazze nude e alla Picasso, e quindi tutte un po' stortignacole, viene fuori questa scena. Beh, e allora la facciamo o no questa mucchiata? Vabbè, d'accordo. Se proprio dobbiamo. Sì, però una cosa breve, che dopo un appuntamento dall'estetista. Ma che bella! Grazie. Lo so. Dicono che ho preso da mia mamma. E vedrai dopo che sarò andata dall'estetista. Ma no, parlavo di me, guardate che fisico. È molto meglio il mio. Sì, ma la mia carrozzeria non ce l'ha nessuna. E il mio davanzale? Dove lo mettete il mio davanzale? Sì, vabbè, ma basta toccarsi. Adesso voglio dire, questa mucchiata la facciamo o no? Mi sa che ho lasciato il fornello acceso in cucina. Si è fatto tardi, vado dall'estetista. Il mio oroscopo di oggi mi diceva di evitare le orge. Ho dimenticato di portare a passeggio Bobby, sai, poi diventa nervoso. Vado, se no mi devasta casa. Sono rimasta sola. Vabbè, ho capito, anche stasera solitario. Allora, ecco, questo è da tagliare. Perfetto, grazie. Grazie a voi. A presto, ciao. Igual que en un escenario finges tu dolor barato, tu drama no es necesario, ya conozco ese teatro, mintiendo que bien te queda el papel, después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente en la fiebre de tus besos, mentiste serenamente y el telón cayó. Por eso, teatro, lo tuyo es puro teatro. Teatro, puro teatro. Fuori dal dramma, dentro e oltre la comicità. Pièce teatrali femministe e lesbiche in radio. Ai! Perdona che no te crea, me parece que es teatro. Perdona che no te crea, lo tuyo es puro teatro.